Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti. Ma concede che? Se stava andando già. Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale PZA adibito a traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali e contraveniva più riprese agli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire mi pare. Non mi fa restare, pago subito. Certo, è facile intravedere l'abuso di potere nel finto vigile urbano, ma era Ferbena Cavallo, aveva un bisogno esasperato di soldi. Questa mattina voglio parlare proprio di divieti. Cosa vietereste? Perché lo dico? Ma io in questo momento, se potessi vietare qualcosa, vieterei ai colleghi di dire 30 secondi prima della mia trasmissione andate su Facebook. La gente che sta in ascolto dovrebbe stare ad ascoltare questa radio, scusate se mi permetto. Comunque, tutto va bene anche il fatto che al Comune di Roma stanno varando il nuovo regolamento di pulizia urbana. È qualcosa che direte voi interessa solo i romani? Sì, interessa solo i romani, ma voglio estendere alla sensibilità nazionale questa idea folle, un'idea da venerdì, proprio per rilassarsi, proprio mentre state lì a girarvi il sughetto, a pensare ai reni, a pensare alle sigarette elettroniche che minano i polmoni, ognuno ha la sua supposta sanitaria e io mi sono beccato questa. Detto questo, cosa vietereste voi? Se voi foste il sindaco del mondo e doveste vietare, che ne so, qualcosa, perché? Perché pensate che sia giusto, perché a voi dà fastidio. A Roma già si sa, i regolamenti di polizia urbana in tutte le città regolano alcune funzioni basilari, non so, vietato stendere i panni sulla strada, vietato far fare la pipì negli angoli ai cagnolini, bisogna raccogliere la pupù degli altri cagnolini e buttarla nell'apposito cassonetto, ma sono tanti, non mettere i tavolini fuori, si va proprio poi anche alle cose minime, non si può ascoltare la musica a palla con gli stereo, i coatti che girano di notte con la musica a palla, quello non si può fare tante cose, poi le diremo via via. Io vorrei proporvi qualcosa di surreale. Ammesso che voi possiate fare un regolamento di polizia urbana valido per tutto il paese, quali sarebbero le cose che secondo voi non sono contemplate in questi regolamenti che secondo voi sono vietate? Facciamo degli esempi. Cioè, io vieterei di mangiare l'aglio e poi andare nei mezzi pubblici. Voi dite, ma no, perché non hanno diritto, soprattutto popolazioni che vengono da paesi lontani e le loro abitudini etniche e alimentari sono che la mattina se non fare un bel frittatone con aglio e cipolla. Sì, io la mattina sono circondato nella metropolitana da zaffate d'aglio che vengono da tutte le aree geografiche in cui l'aglio è un alimento fondamentale, probabilmente. Per la mia natura vampiresca l'aglio mi fa venire i brividi, mi posso dissolvere come alla luce del sole mi dissolverei se fossi vampiro e via dicendo. Altra cosa che vieterei, anticipo subito per tenermi sull'onda lunga della supposta sanitaria, le cose che riguardano comunque l'aspetto corporeo, fare le puzze nell'ascensore. Ragazzi, non vi scandalizzate, è argomento quotidiano a quest'ora, quindi vi dico anche questo. Sono delle persone che hanno problemi batterici, di colite, intestinali, dovremmo sentire gli esperti in questo, e si liberano del gas in eccesso dentro l'ascensore. Guardate che è bruttissimo, è come mettere, non so, una mina antiuomo davanti a un asilo, è una cosa bestiale. La puzza nell'ascensore è come il genio della lampada di Aladino dentro la lampada, sta lì tutto compresso, uno sfriga la lampada e esce fuori. Il disgraziato che entra dopo di voi nell'ascensore è chiuso in una camera a gas, non c'ha possibilità di fuga, se la deve sorbire tutta, tutto l'esito dei vostri batteri si deve subire lui. Avete altri suggerimenti? Entriamo in un ambito un pochino più suave e un pochino più leggero. 800240024, vi do qualche spunto. Divieti e multe del nuovo regolamento di polizia urbana. Anno Domini 2017. È severamente vietato consumare vivande e bere alcolici sui mezzi pubblici per tutelare la sicurezza dei viaggiatori. Multa prevista per i trasgressori tra i 100 e i 300 euro. È fatto divieto assoluto di esporre o stendere all'aperto, entro l'abitato, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciorinare biancheria o altri oggetti simili anche in aree, recinti o spazi privati che siano visibili dalle vie e piazze pubbliche. Guardate, sembra qualcosa che appartiene al passato, ma lì sono regolamenti che affondano le radici veramente in ere remote e arcaiche, in cui le famiglie sciorinavano i panni alle finestre. Oggi è molto difficile vedere a Roma panni stesi, anche perché è vietato, anche per la gente alle asciugatrici, poi ci sono lavanderie, poi la gente non lo so, forse non lava più nemmeno i vestiti, li butta via, li compra, non lo so. Non so dove stendono i vestiti, io l'ho stesi per molto tempo in un mio terrazzino piccolissimo, poi il vicino di casa mi buttava la salsa di pomodoro sulle lenzuola stese perché non voleva che le stendessi e abbiamo provveduto altrimenti. Questo regolamento in realtà colpisce con multe piuttosto salate, non è così facile, perché sì, ad esempio farsi il bagno in una fontana, cosa che quest'estate hanno fatto tutti, ci si becca 240 euro fino a 450 euro di multa. Imbrattare i muri non è possibile, Roma e altre città italiane sono piene di scritte, non è possibile, è vietato. In realtà qualcuno dovrebbe farti una multa. Altra moda che è stata segnalata quest'estate. Quest'estate tutta la gente ha trombato all'aperto, non so per quale ragione, una moda. Improvvisamente si vedeva ogni mattina nei social, nei siti, anche nei giornali, in carenza e vacazio di notizie importanti, fotografavano qua e là, visto la gente ormai gira tutta con un telefono in mano, persone che si accoppiavano felicemente negli angoli delle strade, sui marciapiedi. Guardate, non erano clochard, emarginati, residui di emarginazioni, gente borderline. No, assolutamente, gente normalissima. Presa l'euforia, scatta l'ormone, dove sei sei, ti tiri sulla gonna, tiri giù le mutande e via. Maddalena, buongiorno. Buongiorno. Cosa vieterebbe? Fosse plenipotenziaria, nessuno la giudica. Però sì, ci va da tosta. Certo. Beh sì, se, viste le male abitudini, perlomeno nella città, provincia di Bologna, il mio sarebbe un divieto molto tosto. Io vieterei a qualsiasi mezzo a motore privato, e anche non a, diciamo anche quelli elettrici, comunque tutti i mezzi privati, motorini, automobili, eccetera, di entrare in città. Vabbè, scusi, perché un divieto sono... così banale, Maddalena, si sforza un po' più di fantasia. Banale, ma è... ma questo io tutto lo dico agli amici, cioè no, io ho il diritto di arrivare ovunque. Cioè, a Bologna hanno fatto una zona peraltro minuscola, vietata solo al sabato. Sì, vabbè, questa è una cosa è una cosa normale, di normale. Noi non vorrebbe mezzi a motore a Bologna, ma si qualcos'altro che le dà. Quando esce la le dà fastidio qualcos'altro. Io vieterei tutti gli allevamenti intensivi e imporrei alla gente di mangiare carne e prodotti animali una volta alla settimana, se proprio non possono rinunciare. Vabbè, ma questo non può essere regolamento polizia urbana, qualcosa che quando esce lei vede gli umarel che stanno tutti in piazza, quelli danno fastidio, ad esempio? Ma no! Vietato incrociare le braccia dietro la schiena, non so, mi verrebbe in mente. Esprima un divieto magari fantasioso, lei si è comportata come un normale assessore. Non so, c'è tanta gente, che tanti ragazzi che sputano per la strada. Oh, brava, ci siamo. Cioè, sputare per terra. Oh, vede che sta capendo. Un tipo spaventoso. Vietato di allora, diciamo, stabiliamo un range di multa. Sputo semplice, 200 euro. Sputo con scatarro, 300. 300, ma come minimo. Se poi scatarro che è fumato con tutta la nicotina? Ecco. Se poi colpisce qualcuno, visto che a me è capitato che mi arrivasse sulla caviglia una chewing gum masticato schifoso. Gli hanno sputato una gomma sulla caviglia? Sì, l'hanno sputata a casaccio, a me è arrivata sulla caviglia. E cosa ha fatto? Io ho fatto una scenata. E questo diceva che non era una signora, diceva che non era stata lei, c'era solo lei. Gliel'ha sputata apposta? No, lei l'ha sputata. È come quelle strisce che usate voi donne per depilarvi, toglierla è stato un disastro. È uno schifo tremendo, era meglio la. Ma l'ha fatta togliere la ragazza o se l'è tolta da sola? No, me l'ho tolta io. Che schifo. E dove l'ha messa dopo, però, la gomma una volta che l'ha tolta? Io l'ho messa nel cestino. Ah, ecco, non l'ha buttata per terra. Uno schifo. Ecco, quella lì secondo me 1000 euro e magari 2-3 giorni di carcere. 1000 euro, 3 giorni di carcere per sputare le gomme addosso. Andiamo avanti, Maddalena ha dato l'avvio. Federico, buongiorno. Buongiorno. Il mio divieto è un po' più scherzoso forse. No, ma lei deve essere serio, guardi, facciamo finta che comandiamo una volta tanto nella vita. E okay. La prima cosa che si fa quando si comanda si vieta qualcosa, se no che si comanda a fare? Esprima in piena libertà, in piena libertà. Non riesco più a vedere il gomito sul tavolo che punta verso il tuo dirimpettaio. Ormai c'è avambraccio e braccio ad angolo acuto protesi verso il dirimpettaio sulla tavola, in più la schiena ne risulta un po' ingobbita, sono sembra di aver i gomiti mentre, ma quando si mangia? Mentre si mangia? Sì, quando si mangia. Ma lei pensi, sinistro, lei pensi, guardi, che nella mia disgraziata e travagliata fanciullezza è stata una delle mie ossessioni, non si mettono i gomiti sulla tavola, ci mettevano i libri sotto le ascelle a tavola perché dovevamo tenere le ascelle e le braccia raccolte, una cosa terribile. Ma vado ancora per il gomito largo, ma il gomito messo su una roba da troglodito, ormai vedi ragazzine, io le cassavo direttamente. Allora, quanto vogliamo dare di multa per gomiti sul tavolo? No, perché guarda, è giusto, è anche una regola, se in altro, si insegna alle persone a stare al mondo, a stare a tavola. Quarantina di euro. 40 euro? Ci diamo 10 di resto. Ma 40 per gomito o 40? Perché se uno sta su un gomito solo, metà multa? No, ci pensi. 40 gomito. Lei guardi, se lei fa una cosa del genere, stia sicuro che poi la gente ci pensa. Si sforzi un attimo, vediamo se le viene in mente qualcos'altro di veramente fastidioso, qualcosa che le dà fastidio terribilmente, che non sopporta. Io ho detto l'aglio nell'autobus perché ho messo la prima cosa che questa mattina mi ha infastidito, ma ce ne possono essere tante. Il solito ravanare nel naso. Ah, le dita nel naso. In macchina, ma ovunque ti capiti trovi qualcuno che è lì che si... Scaccolarsi. Si gira bene il dito. Dobbiamo sempre stabilire comunque, diciamo, la percentuale di multa. Allora, un dito 80, nel naso, 80. 80, sì. Perché poi dopo non si sa bene che fine vada. Anche perché non sta scritto da nessuna parte che la caccola sia biodegradabile, non si sa, magari un inquinamento persistente. Non ci ho pensato, con tutto quello che respiriamo ormai sicuramente ci vorranno millenni per la degradazione. Non si sa che fine fanno. Comunque, Federico, già abbiamo stabilito comunque dei termini. Vediamo Maria Cristina. Dunque io, buongiorno. Buongiorno. Vieterei senz'altro i rampicanti finti, tutte quelle piante finte che... Cioè l'edera di plastica. Deturpano, sì, deturpano proprio... Sono peggio dello scempio che nascondono. Preferirei vedere altro. Lei ne vede parecchie le piante... Che le mettono a fare poi le piante finte? Non capisco, senso... Ma immagino per nascondere delle cose sui balconi, non credo per abbellimento, perché nell'arco di poco tempo, poche settimane, ingialliscono e diventano davvero... Ma perché non mettere le piante vere? È perché le piante vere richiedono tempo, probabilmente, cure, acqua, e quindi presumo sia quello. Mi viene in mente che c'è un albergo bellissimo nel centro di Roma, non lo cito per non crearmi problemi, ma è stupendo, ci fanno congressi, un bel residence, stranieri. C'ha all'interno un patio interno bellissimo, si prende l'aperitivo, si può conversare, si cena, in un palazzo storico del centro storico di Roma, completamente ricoperto di edera di plastica, ma alta 6-7 metri. È uno scatolone di plastica che poi quando comincia a essere caldo l'edera di plastica rilascia quell'odorino, eppure è così. Sì. No, lei consideri che io ho evitato di frequentare una catena di locali che c'erano un po' di tempo fa, che avevano nell'arredo interno proprio piante di plastica, ma non perché mi desse fastidio. Quanto diamo di multa? Allora, stabiliamo anche qua, quanto diamo? Stabiliamo 100 euro. 100 euro per le piante nei vasetti? Sì, è per le per coperture complete dei balconi, anche 500 euro. 500 euro a metro quadrato però. Ecco, va bene, dai, sono d'accordo con lei. Io a questo punto, scusi, allarghiamo un attimo, anche se polizia mortuaria, anche il divieto di mettere fiori di plastica sulle tombe. Uno va lì presto, il 2 novembre lascia un mazzo di garofani di plastica e se ne va, ritorna il 2 novembre dopo. È triste la tomba col fiore di plastica. È una cosa talmente... Meglio scuola. Niente, meglio niente. Ma poi ci sono delle alternative. Quali sono? Esistono anche delle cose artistiche liofilizzate. Ah, i fiori liofilizzati. Mantengono perlomeno, non è che mi piacciono molto, comunque in mancanza... Ma il fiore di plastica è eterno, quello rimane lì, sopravvive. No, non è eterno perché dopo un paio di mesi... Si sbiadisce. Non è più quello. Perché adesso sono i fiori dei cinesi, una volta i fiori di plastica erano fiori seri. Va bene, grazie Maria Cristina. Maria Cristina, grazie. Anna, cosa è vietato? Anna vieterebbe la fumare in strada. Ma anche la sigaretta elettronica? Neanche la sigaretta elettronica. No, non so se ha sentito la pillola di salute prima di me, c'è un problema sulla sigaretta elettronica. Sì, esatto, a parte quello, comunque è fastidioso passare, respirare i fumi, è fastidioso. Sono il telefono aperto, mi ha arrivato un messaggio, capito, prego, mi vietate anche questo, adesso spengo tutto. Avanti, vada avanti, scusi. Dicevo che sono fastidioso il fumo, è fastidiosa la cenere, sono fastidiose le cicche, quindi io divieto di fumare per strada allora. Esatto. Perché? Ma perché? Però la strada è aperta, cioè uno nemmeno per strada, dove può fumare uno? Appositi locali per fumare. A casa propria direi. Casa propria, nel proprio Io ho detto bassa libertà, divieto di fumo per strada. Esatto. E quanto darebbe di multa? Solo la sigaretta 100 euro, se ti becco elettronica? La cicca anche 200, la sigaretta elettronica, ma io la equiparerei a quella, la sigaretta normale. La stessa cosa, però sì. Quella è un pochino meno inquina, poi non c'ha l'effetto diciamo del cadavere del mozzicone, no? Allora dai 80. 80, allora 80 sigaretta elettronica, 100 sigaretta convenzionale. Il 200 euro se ti becco a buttare ogni mozzicone, anche il mozzicone, esatto. Mi sembra che persista 300 anni, una cosa terribile, ecco. Non si sleva. Benissimo, esatto. Molto, molto interessante. 800240024, spero che qualche amministratore di pubblica città italiana ci ascolti e prenda spunto, perché stanno venendo fuori delle informazioni molto interessanti. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, il piacere del dubbio. È vietato ascoltare musica ad alto volume in macchina. L'emissione sonora non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei veicoli. È obbligatorio per tutti i condomini dotarsi di citofono. Ai trasgressori verrà comminata la multa di 150 euro. È vietato far suonare l'antifurto degli appartamenti per più di 5 minuti. Per i trasgressori la sanzione sarà di 300 euro. Coloro che bivaccano su una fontana saranno multati fino a 450 euro. Coloro che imbrattano i muri avranno una multa di 400 euro e multa di 160 euro per chi lava i vetri al semaforo. Certo, se applicassero le sanzioni a tutti questi divieti non avrebbero i problemi di bilancio comuni. Cioè, non ho mai visto fare la multa a uno che lava i vetri al semaforo, mai visto fare la multa a uno che scrive sui muri. Forse sì, se lo prendono in flagranza, ma non lo prendono mai. Comunque 800240024, se foste voi il capo del mondo, il grande sindaco dell'umanità, cosa vietereste? Cose piccole, cose banali, non soltanto le cose schifose, anche come ci si veste, non so. Io vieterei alle donne di girare con quei pantaloni larghi che arrivano a mezzo polpaccio, con le scarpe con i tacchi sotto. E quanto di più estetico esista al mondo? Ah, sentono fighissime, belle, queste sorta di cilindri di stoffa, tutti pari, tutti uguali, dai fianchi a metà caviglia, che si vede un pezzo di caviglia, poi la scarpa col tacco e sotto non c'entra niente. Una cosa disarmonica, orribile. E vedi tutte fiere così, quelle le vieterei. Mi stanno scrivendo, vieterebbero di usare le ciabatte in città, vero? Fanno ciac ciac, l'infradito, terribile infradito per uomo e per donna. Le ballerine, la ballerina dal menarca in su non può essere messa. La ballerina è roba da bambini, basta. No, invece no, tutte con le ballerine. Quando sentono carine le signore con le ballerine, si rendono conto, sembrano nonna papera viste da dietro. Eppure tutte con le ballerine. Giacomo. Ciao, buongiorno. Che vieterebbe? Allora, primo divieto, di fare i complimenti quando si interviene in trasmissione, è tutto tempo perso. Ma bravo, esattamente. Anche divieto, di dire cose banali all'inizio, perché dopo si perde tempo. Esatto, bravo. Secondo, anche dire bravo al conduttore, vietatissimo, tempo perso. Ai dipendenti dell'anagrafe di storpiare i nomi. Io mi chiamo Giacomo con due C, chissà perché poi. Vabbè. Beh, guardi, allora lei adesso ha aperto io mi chiamo Gianluca. Lo sa che ancora non so se mi chiamo Gian staccato Luca, Gian trattino Luca o Gianluca tutto attaccato. Io ho firmato per anni Gianluca tutto attaccato. C'ho la carta d'identità con Gian staccato Luca, la patente Gian trattino Luca, il passaporto Gianluca. E nessuno mi sa dire, ma potevano chiamarmi Giuseppe, Filippo, Antonio, ma Gianluca. Guardi che io ho un amico che è andato a registrare i due gemelli, Giovanni e Leo. Venuto fuori uno Giovanni e l'altro è Leo, non è spazio Leo. È perché lui gli ha detto Giovanni e Leo, ma si chiama Eleo o Leo? Lui lo chiama Eleo, vabbè, ormai è abituato. Perché scusi, lui si diceva prima Leo, c'è Leo e Giovanni, l'altro si chiamava e Giovanni. Sì, infatti. L'ultimo comunque, quello che mi fa più fastidio, vieterei ai genitori di portare i figli a scuola in macchina. E con che ci devono andare, se abitano lontano? Si portano, si lasciano 2 chilometri, così fanno ginnastica, E questo perché dà fastidio? Questo devo capire, forse devo capire. Ah no, ma adesso no, in tonti dice forse Gian and Score Luca con la trattino basso. No, vabbè, dai. Ok, bene. E queste due cose, vabbè, poca roba, quanto gli diamo di multa chi sbaglia i nomi? Guarda, sbaglia i nomi come le lesioni permanenti per tutta la vita. No, ma faccio scrivere il nome giusto, 6-7 libri, sì. Di pagine. Per esempio, con il non con Giacomo scritto con una cisola. Ah, come a scuola, devi fare 70 quaderni con scritto Eleo, non esiste Eleo, esiste Eleo. Ma lei scusi, ma sua madre non se n'è accorta quando gli hanno storpiato il nome? No, io credo che io essendo nato in Belgio, il mio nome in francese si scrive Jacques CQ. Chi ha tradotto ha immaginato che fosse una doppia, che ne so. Ma quanto l'hanno preso per il culo a scuola? No, perché l'ho scoperto a 30 anni quando mi è arrivato il certificato di nascita dal Belgio. Ah, prima non lo sa, pensava di chiamarsi Giacomo. Esatto. Lei ha una vita, diciamo. Una doppia vita? Sì, ma ha una moglie, una persona. Una persona con cui sta insieme, con cui vive insieme, ce l'ha? Sì. Ma l'ha chiamata finora Giacomo, adesso la chiamata Giacomo. Esatto. Vabbè, Giacomo, secondo me, glielo farà mosciare fino alla fine dei suoi giorni. Una donna dice Giacomo. Cioè, non lo so, sembra qualcosa di strano. Vabbè, Giacomo, si porti la sua croce, ognuno alla sua. Massimo, non c'è. Buongiorno, Nicoletti. Ah, sì. Vietato attendere allora, alcuni vuoti secondi prima di rispondere. Avanti. Allora, vieterei la circolazione in città di tutti coloro che espongono dei tatuaggi. Divieto del tatuaggio, perfetto. Divieto del tatuaggio. Divieto assoluto per con alcune eccezioni. Chi? Possono circolare solamente ex carcerati, marinai. Sì. E tutti coloro che dimostrino di fronte a una commissione che quel tatuaggio è stato fatto e realizzato per motivi proprio profondi. Vabbè, alcune etnie come i Maori possono. Chi ce l'ha come pratica religiosa, etica, esatto, non può togliergli. Sennò dovrebbe vietare di circoncidere, vietare tante cose. No, ecco. Quello poi è difficile a capire. E come fa a dire? Fammi vedere se non si può, questo non si può. Quindi il tatuaggio vietato. Ma allora, nell'ordine, vediamo le multe. Tatuaggio tripale coccigeo, cioè quella sorta di freccia che indica in mezzo alle natiche. Non ci sono delle multe, ma ci sono dei campi di rieducazione. Rieducazione proprio. E rieducazione, la lunghezza della rieducazione in funzione del tipo tatuaggio. Cioè, se beccano Fedez, deve stare dentro 30 anni. Ergastolo per Fedez. Senta, ma non sarebbe. Se fa una milizia antitatuaggio, cioè dei miliziani che girano con un laser sempre pronto per cancellare il tatuaggio col laser? No, perché il tatuaggio senza una rieducazione della persona che si è fatto il tatuaggio è alla radice, va colpito alla radice. In quali persone le dà più fastidio il tatuaggio? Facciamo l'elenco. Superiore a 30 anni. In superiore a 30 anni. Uomini o donne? Uomini o donne? Superiore a 30 anni, padri di famiglia, madri di famiglia o nubili di famiglia, persone con comprovata o sedicente maturità. Quindi soltanto i ragazzini possono, magari se lo fanno i ragazzini. Ragazzini, piccola rieducazione di qualche mese. Eh sì, ma scusa, il ragazzino cresce, invecchia. Quando la ragazzina si fa il tribale, mi faccio il tribale, poi diventa una madre di famiglia, va ai giardinetti, si china per dare il biberon e fuoriesce il tribale. No, il ragazzino sotto a 20 anni ora va rieducato o qualcosa. Rieducato il tatuaggio rimane, va cancellato o no il tatuaggio? No, incompatibilmente quello è una questione tecnica, possibilmente sì. Possibilmente va tolto. Ma no, perché nel momento in cui la rieducazione produce efficacia, la persona se provvede autonomamente a togliersi il tatuaggio oppure a coprirselo. Va bene, mi sembra chiaro. Davide è molto interessante, perché riguarda lo sfasamento temporale dato dalla necessità di fare le vetrine nei negozi. Davide, cosa vieterebbe? No, più che le vetrine, le luminarie di Natale. Quando, come le vieterebbe? Danno fastidio perché le mettono troppo presto, a novembre già si vedono queste luminarie, bisognerebbe farle dal primo di gennaio dal primo di dicembre fino al 6 di gennaio. Il 7 gennaio che ancora c'ha un lumino in giro, una Befana, un Babbo Natale, una bella multa. Poi noi abbiamo una ditta che vende queste cose e c'è un povero Cristo vestito da Babbo Natale già a novembre fino a dopo Natale, ma con il campanellino sulla strada, poverino. Allora, le do altri spunti. Una signora ci scrive, vieterebbe se ancora esistono, i Babbo Natale, quelli dei balconi, ancora ne esiste, dimenticato dal 2010, stanno ancora lì. Estate, esatto. Inverno, magari la casa è sfitta, sono tutti morti, ma c'è macilento, scolorito, solo, disgraziato, arroventato dal sole, fustigato dalle intemperie, un Babbo Natale sulla scaletta cinese lì che aspetta. Quelli vietatissimi. Poverino, è proprio povero, vabbè. Altra cosa, mi dà uno spunto. Intanto pensi, le multe. È vietato fare le vetrine con abbigliamento non confacente alla stagione. Allora, tipo il 16 agosto a Roma c'erano esposti vestiti di fustagno, giacche di tweed, giacconi con il collo di pelliccia. Uno già era caldo, passeggiava per strada, vedeva le vetrine con i vestiti invernali, pensava, non so, alla fine del mondo, è successo qualcosa, è scoppiata la bomba atomica, c'è una sorta di calore artificiale. Perché le vetrine sono piene di vestiti invernali? E perché quando ancora si batte i denti dal freddo, si sta con lo scaldino, il termosifone a tutta potenza, si vedono i costumi da bagno? Anche questo, le vetrine devono essere adeguate al clima, non alla necessità commerciale. E oggi c'è il sole, vestiti freschi, da sole. Oggi è freddo, mettete il pellicciotto. Se andate adesso nelle zone dello shopping di tutte le città d'Italia, sono già vestiti invernali, delle coltri, i cappotti, i piumini, i moonboot per andare sulla neve. Ragazzi, qua ancora andiamo in infradito. In Tonti Chiappini sono venuti con i Bermuda stamattina. Perché ci sono i vestiti di lana, lo spigato siberiano di Fantozzi, le vetrine? Vietare, vietare, vietare, sanzionare. A tra poco. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Melog, il piacere del dubbio. 800240024, cosa vorreste vietare? Vedo che la fantasia dei divieti sta cominciando a dare frutti fecondi. Proverei le palle di lardo di mostrarsi in spiaggia, offendono il senso estetico. Questo non c'entra nulla, è questione di gusti. Ci sono persone a cui piace molto persone corpulente, perché dovete essere così limitativi. Le mani sulle vetrine e le vetrate, 100 euro, questo è giusto. Chi pulisce le vetrine, vede tutti lì con le mani sulle vetrine, rimangono le impronte. Questo mi sembra giusto. Starnutire i loghi chiusi quando si è raffreddati, è vero, si contamina, altro che la zanzara, Anofele, si contamina starnutendosi addosso. Dare becchime ai piccioni, vietatissimo, vietatissimo. Dare da mangiare ai piccioni, vietatissimo. Ma oggi non ci sono più i piccioni, ci sono degli uccelloni giganteschi che girano per lo meno per la città di Roma, e quelli gli dai da mangiare, lì si mangiano tutto, hanno dei becconi enormi, gli porgi la mano con la patatina, bambino, dai da mangiare l'uccellone gli mangia la manina. Germano, buongiorno. Buongiorno. Che vieterebbe? Io sono particolarmente censore stamattina. Giustamente. Varie cose. Ma finalmente. Una sana censura. Gli uomini che si fanno le sopracciglia all'aria di gabbiano. Ah, le ali di gabbiano, vietatissime. Sì, vietatissime. Poi che si oliano dopo essersi completamente depilati e si fanno le lampade anche a dicembre. Ma quelli come fa a vederli per strada? Deve spogliarli. Quelli vedi, vedi il viso e le ali a forma di le sopracciglia. Allora, la milizia per l'asciuttezza maschile dovrebbe girare, vede un ali di gabbiano, lo dovrebbe denudare e vedere se è oliato. Sbottona, togli il maglione, sei d'inverno, sbottona la camicia, d'estate, anche se di solito questi se sei depilato frustate, due frustate sul petto. Allora, depilazione del depilazione pubica, quanto? Sì, no, depilazione pubblica, lì siamo veramente quasi all'ergastolo. Ma quello poi, tra l'altro, è un triste escamotage per guadagnare un centimetro dal colpo d'occhio. Esattamente. Ma un'altra cosa che io vorrei vietare con multa è l'utilizzo casuale della parola buonista e della parola radical chic. Mandato del nazista, dello stronzo, dell'infame, del figlio per tutta la vita. Improvvisamente gli ultimi due anni sono un buonista e radical chic. Mi stavano scrivendo due rotture di palle, anche le risorse, sta roba delle risorse. Chiamare gli immigrati risorse perché l'ha detto la Boldrini. Ma vi sembra di essere originali, intelligenti? Basta. Allora, ogni volta che un italiano fa un crimine dovremmo chiamarlo risorsa salviniana. Ma finalmente una persona aperta. Io farei una battaglia contro il cattivismo di maniera. Allora, se uno vuole essere cattivo, deve esserlo in maniera esteticamente efficace. I cattivi omologati fanno schifo, sono peggio dei buoni, sono peggio dei seminaristi. I cattivi di maniera fanno schifo. Volete essere cattivi? Siatelo in maniera maniera eroica, in maniera esteticamente che colpisce. I veri cattivi sono cattivi che lasciano il segno nella storia. Questa cattiveria da tastiera non lascerà nessun segno, vi renderà ancora più imbelli degli umarel che stanno davanti ai cantieri. Roberto da Modena. Sì, buongiorno. Tolga il viva voce però, vietato il viva voce. Buongiorno. L'ascolto. Ah, io vieterei quei marsupi che si mettono davanti alla pancia, sa? Cosa? Quei marsupi che si mettono davanti alla pancia. Ah, beh, ma, marsupio, io pensavo che già ci fosse la fucilazione come prescrizione che porta al marsupio. Tutti, soprattutto gli anziani quando vanno in gita. Sempre con quelle ciabatte sandali e quei marsupi. Ma perché ancora? Ma ancora li vedo, sì, Roma che è una città turistica, nella fila ai Musei Vaticani hanno tutti il marsupio. O se no mettono, sa, fa ridere i polli, mettono lo zaino davanti, perché sanno che le metropolitane sono piene di zingarelle che saccheggiano, cioè a frotte, ieri ne ho viste la decina, capito? Ci si butta, gli rubano la roba negli zainetti e se li mettono davanti, pensando di essere salvi, ma glieli fregano uguali, non vi portate niente, vuoto, niente. Quattro spicci cucite nelle mutande, come si faceva una volta, e se volete il telefono tenetelo in tasca. Fatta gli zainetti con dentro ogni ben di Dio, ci mettono tutto, le pasticche per la gastrite, il pannolone per l'incontro. È chiaro che te lo saccheggiano. Vai libero, vai asciutto. Va bene, vietato il marsupio e anche lo zaino davanti, fa ridere. Va bene, quanto gli diamo di multa? Ah, gli daremo sui, cioè agli anziani che sono ancora più bruttini, sui 500 euro. 500 euro. E gli uomini di mezza età, un 35-40enne col marsupio? Un po' meno, perché forse donne e uomini... Però io e gli anziani quando vanno in gita soprattutto. Vabbè, però non bisogna nemmeno inferire. Facciamo una cosa, allora facciamo un pacchetto. Marsupio, bermuda e ciabatta, tutti insieme 500 euro. 500 euro, perfetto. Salvatore, buongiorno. No, buongiorno. Allora, sì. Io vieterei, insomma, che si va proprio all'esagerazione, i ragazzi che camminano con le natiche fuori, con i pantaloni, proprio se è arrivato, insomma, a un punto... Ancora siamo al 2012, non si usa più adesso. Ma guarda che io ancora arrivo, ma non soltanto ragazzini 14-15, vedo anche ragazzi più grandi, anche sono... Con l'elastico delle mutande Calvin Klein che si vede, naturalmente. Bravo, sono i maschietti. Neanche le femminucce. Le donne non hanno bisogno di mostrare il culo, già ce l'hanno per loro. Gli uomini devono segnalare questa loro possibilità accessoria. Quindi divieto del pantone, sì. Ma allora mettiamo anche il divieto del risvoltino, scusi, già che ci siamo. Ma perché no, sì, anche ma però già, insomma, quella roba è frivola, che vuole il risvoltino, perché un tempo si usava il risvoltino comunque, un tempo era usato, andava di moda. Si ricorda, il sarto diceva, quanto lo vuole il risvolto? Il risvolto 100 euro. Va bene. No, il sarto c'era, quanto lo vuole alto il risvolto? C'era il risvolto dopo. No, vabbè, dai. Due no, cose c'era il sarto. Comunque un paio di centimetri, io mi ricordo che era un paio di centimetri sul risvoltino che si faceva. Lei si è mai fatto dei pantaloni da un sarto? Io no, mi pare di no. No, erano due domande, era sul risvolto e l'altra sull'ingombro da che parte stava, cosa che oggi fa parte della preistoria. Però l'ingombro da che parte lo porta, dice, basa quello, che poi se me lo chiede adesso non glielo saprei dire, è volubile, dipende dal giorno. Va bene. Sì. Va bene, va Marco, bene. Marco, buongiorno. Buongiorno, io sono un po' con l'idea del signore, comunque vieterei certi capi volgari addosso dei minorenni. Come i pantaloncini che vanno di moda adesso, dove c'è tutto il sedere di fuori. Beh, se non le portano le ragazzine, scusi, meglio che lo portino loro che le portino le mamme. Ma per l'amor di Dio, ma che lo portano magari al mare, ma non in piena città e non in quel quindi modo. Abbigliamento così, provocante. Così volgare. Sì, provocante. Volgare. Beh, volgare, scusi, volgare è un'accezione molto soggettiva. È provocante. Ma se è una cosa bella, è volgare mostrata così. Oramai ultimamente si è persa la femminilità in tutte le ragazze. Vabbè, questo lasci dire ai ragazzi, che ne sappiamo noi. Noi ormai siamo su una... Lei quanti anni ha, Marco? 57. Ma che ne sa ormai lei? Sono altri altri mondi, non ci pensi più. Ma via. La femminilità è una cosa stupenda. Vedere una ragazza ben vestita, messa bene, che non si mette mille tatuaggi, che non vada in giro come va in giro tutti i caproni, che non seguono le mode, ma si crea una loro moda. Vabbè, ognuno c'è il suo modo. Comunque, è un po' però vago, circoscriva. A quelle ragazzine lì, perché? La butterei ai genitori che le fanno uscire così. Vabbè, io sono molto più di manica larga, in questo mi piace che ognuno faccia quel che vuole. Le ragazzine a me non danno fastidio, però se lei danno fastidio, il pantalone con la chiappa di fuori... Non è che mi danno fastidio o mi altro, a me dispiace, perché vedere una bella ragazzina andare in giro in quella maniera lì, che sembra come dire, ecco, mi sono fatta così, mi dispiace. Vabbè, ma loro. Magari si sa, è il momento che scoprono il fatto di essere ammirata, loro può piacere, non lo so, vabbè, comunque io voglio essere laico in questo, sai, non piace, pantaloncino, e siccome sono minorenni, la multa poi la pagano i genitori, facciamo 50 euro a chiappa. E poi un'altra cosa, no, se non esageriamo, i genitori magari gli facciamo vedere come cosa vuol dire mandare in giro i figli. Essere femminile. Vabbè, lei va a trovare i genitori, dice, adesso vi spiego cosa vuol dire essere femminile. Vabbè. E poi un'altra cosa, io vieterei tutti quei divieti inutili e stupidi, tipo... Vabbè, basta, fine, vi è vietato parlare. Amelina, l'ultima cosa era fantastica. Le donne d'estate con gli stivali, vero? Sì. Guardi. Fanno schifo, uno pensa alla puzza di quei piedi, esatto, lessati. Io penso ai partner. Ma perché si rimettono? Perché si mettono gli stivali d'estate? Non si ma sa. Io non so, io però per legge del contrappasso le costringerei queste pazze a mettersi l'infradito d'inverno. Tanti bellissimo, giorni bravissimo. Hai portato gli stivali d'estate, tanti giorni poi speriamo, sono brutti in ugual misura. Speriamo che la sindaca Raggi ci abbia ascoltato e tragga spunti importanti nel suo regolamento da questa trasmissione disgraziata. Alla prossima.